as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Buon pomeriggio a tutti, siamo di nuovo qui ad Il Pane e le Rose. Ormai sono un po' di anni che siamo in trasmissione, abbiamo discusso di lavoro quasi tutti i martedì ad 1:30 sulla Città Fucico. Questa trasmissione spesso ha avuto ospiti illustri, alcune volte invece, come la maggior parte delle volte, abbiamo intervistato lavoratori, come ci piace fare, però abbiamo avuto anche vari segretari, funzionari di sindacali, vari, anche dei politici di più o meno importanti, spesso chiaramente della sinistra, del mondo, legati al mondo del lavoro. Oggi però trasmissione speciale, trasmissione in cui ogni tanto capita che parlo io. Sì, parlo io, Tecno Gianplacido, ci metto la faccia, non lo faccio quasi mai fare la trasmissione in cui racconto quello che accade, quello che penso, tutta la trasmissione. Normalmente chi ci segue sa che faccio delle interviste, a me piace intervistare la gente perché così do voce ai lavoratori spesso, o comunque faccio ascoltare quello che teoricamente dicono direttamente, non solo sui giornali, i funzionari sindacali o altri personaggi legati al mondo del lavoro. Questa trasmissione però la possiamo intitolare Adesso parlo io. Sì, adesso parlo io perché ci sono una serie di cose che vorrei dire. Ci troviamo in una situazione particolare. C'è stata la manifestazione del 6 maggio, in Italia si sono svolte tantissime assemblee di luoghi di lavoro, proprio perché ci eravamo messi d'accordo CGIL e CISL e UIL che avremmo dovuto informare i lavoratori per coinvolgerli nella manifestazione del 6 maggio. Certamente è stato fatto, poi ne parleremo durante la trasmissione, vi racconterò un po' quello che è successo nelle varie assemblee, partendo dall'assemblea della Bonfiglio dei Riduttori, dove lavoro io, e poi parleremo un po' della manifestazione, parleremo di quello che è successo, di quello che hanno raccontato sui palchi i vari segretari, o delle osservazioni, visto quello che è successo. Insomma, è un periodo un po' particolare, dal 25 aprile al 1 maggio, insomma, è un periodo che per me è sempre stato molto importante, ci sono tante ricorrenze, c'è stata la manifestazione del 6 maggio, insomma, parleremo anche di questo. A dopo. Te lo ricordi qualche anno fa, quanto eravamo soli, sempre rinchiusi dentro un garage e tutto il mondo fuori. Ma adesso che è cambiato tutto, cambi tu e la tua città. Ma adesso che è cambiato tutto, anche la musica. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto, è a me piuttosto. Mi sembra tutto giusto, è tutto giusto, il mio disgusto. Fa quanto eravate sordi e noi cresciuti in cattività, strappati lungo i bordi. Ma adesso che è cambiato tutto, cambio io e questa città. Ma adesso che abbiamo ammazzato anche la musica. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto, è a me piuttosto. posto a tutto giusto e io piuttosto Abbiamo ascoltato un bellissimo pezzo, Strappati lungo i bordi. Chi ha visto il film di Zero Calcare lo ricorda benissimo. Io amo questo pezzo, insomma, mi ricordo tante cose. Ora, come abbiamo detto nell'introduzione, chi se l'è perso, vabbè, oggi parleremo di quello che è successo il 6 maggio. La manifestazione confederale si è svolta a Bologna, eravamo in piazza, io ero con i lavoratori della Bonfiglioli, chiaramente eravamo sotto il nostro striscione, e c'erano diversi lavoratori della Bonfiglioli, eravamo in tanti, eravamo tantissimi, forse gli organizzatori non si aspettavano tutta quella gente, in piazza eravamo veramente tanti. E gli slogan che si sono sentiti, uno che mi ha particolarmente entusiasmato era quello che cui si chiedeva lo sciopero generale, e proprio di questo io vorrei parlare. Si è andato dai lavoratori con una scelta ben precisa, quella di non proclamare lo sciopero generale. Avete sentito Landini, c'è stata anche una polemica in cui da sinistra si è detto insomma Landini non vuole fare lo sciopero generale, l'ha anche dichiarato. Allora io vorrei, insomma, visto che ho partecipato essendo un teoricamente un dirigente nazionale della FIOM, quando si è presa la decisione di scioperare o non scioperare, chiaramente io ero per scioperare a livello nazionale, uno sciopero confederale, se non scioperiamo adesso quando? In realtà la CGIL ha preso una decisione in parte perché doveva tenere dietro la CIS e la UIL, chiaramente, e in parte perché vuole costruire qualcosa che si è perso, vuole convincere i lavoratori e creare un'iniziativa dopo l'altra per poter raggiungere tutti i lavoratori e motivare i lavoratori e creare un gruppo di lavoratori coscienti del fatto che bisogna scendere in piazza, bisogna lottare per il programma, insomma, che si vuole realizzare. Allora, chiaramente quello per cui siamo scesi in piazza io cercherò di sintetizzarlo. Al primo posto chiaramente c'è il salario, c'è una riforma fiscale che la CGIL sta chiedendo insieme alla CISA e alla UIL al governo. Allora, questa riforma fiscale è parte dal presupposto che la CGIL, lo dico proprio molto semplicemente, non è contraria all'abbassamento delle tasse dei lavoratori dipendenti, anche perché in fabbrica è una cosa che si sente, i lavoratori si sentono e hanno ragione, e io sono uno di loro, di essere gli unici fessi in Italia. Non c'è proprio completamente questa considerazione, però è la realtà, nel senso che se andiamo a vedere, l'ho detto più volte in trasmissione, ci sono i gioiellieri che denunciano di media un fatturato molto più basso di un operaio della Fiat. Sappiamo benissimo che non è così. Le partite IVA in Italia denunciano molto molto poco di quello che fatturano di media, non sto dicendo che sono tutti degli evasori fiscali, ma la media è veramente bassa, come dovrebbe fare l'operaio. Cioè io guadagno il doppio di un dentista, tra un po', no, non vorrei esagerare, però siamo a dei livelli incredibili, no? Noi siamo lavoratori dipendenti, e dunque la CGIL sta chiedendo una riforma fiscale di abbassare le tasse, però ha sempre chiesto, questo è vero, è giusto, sul palco di questo si è dibattuto, della manifestazione del 6 maggio in Piazza Maggiore, ma che vengano presi i soldi per poterli ridare ai lavoratori dagli extra profitti, cioè da chi li ha. Infatti cos'è successo? È successo che in questo periodo, il 1 maggio soprattutto, il governo ha fatto la sua mossa. Diciamo che la Merloni l'aveva promessa, l'ha avuta al congresso della CGIL, promettendo di affrontare la questione salariale e fiscale dei lavoratori. Solo che chiaramente è un governo di destra, fa la destra e fondamentalmente non tocca chi veramente in questo paese evade le tasse ed è ricco. non ha nessuna intenzione di fare una patrimoniale, nemmeno di andare a prendere i soldi di tutte quelle grandi aziende che in questi anni della pandemia ad oggi si sono arricchiti attraverso la speculazione finanziaria, attraverso la speculazione che c'è stata durante il Covid e adesso durante la guerra. I cosiddetti extra profitti, ma non ha nessuna intenzione di mettere una patrimoniale. E dunque questi soldi che verranno dati ai lavoratori verranno presi dal welfare pubblico. Non è un caso che abbiamo fatto la trasmissione la volta scorsa sulla questione della crisi che c'è all'ospedale Rizzoli, ma non solo, gli ospedali italiani che rischiano di chiudere, tantissimi ospedali in Italia, e rischiamo di vedere, visto anche al fatto che la Meloni per la prima volta nella storia ha fatto una riduzione di tasse veramente incredibile alle partite IVA, al suo elettorato. Stiamo parlando di un taglio di 30 punti. Calcolate che a noi non ci hanno tagliato le tasse, voglio dirlo a tutti i lavoratori che ci ascoltano, c'è stato solamente un incremento della decontribuzione che ha fatto Draghi di 2 punti, che si arriva al massimo a 7. Qua stiamo parlando che le partite IVA sono passate dal 15% con una flat tax fino a 70.000 euro lordi di fatturato. Cioè, dunque, la Meloni cosa ha fatto? Ha fatto sì che ci ha dato un'elemosina, ma questa elemosina in un certo senso ha funzionato, perché nel corteo non hanno sfilato CISL e UIL, sono andati direttamente in piazza. Non vorrei dire che questa è stata la motivazione, ma è chiaro che la CISL su questa manovra fatta dal governo, di questa elemosina data prendendo i soldi purtroppo dal pubblico, dai soldi che servirebbero alle scuole e alla sanità, e questo è sbagliato, e questo non è accettabile. Sono le cose che abbiamo detto in assemblea con i lavoratori, e molti lavoratori, almeno in Buonfiglioli, questa cosa qui l'hanno capito, soprattutto quando gli si fa l'esempio di che taglio di tasse hanno avuto le partite IVA. Cioè, hanno preso i soldi del reddito di cittadinanza, degli altri soldi che dovevano servire per le pensioni, per i pensionati, dovevano servire per la scuola, dovevano servire per la sanità, perché oggi abbiamo bisogno di 50 miliardi per avere una sanità sul modello europeo, e li hanno dati a chi oggi evade le tasse. Hanno abbassato le tasse agli evasori fiscali e ci hanno dato a noi una miseria. Questo è, io penso, una cosa che non è mai successa in Italia. Nemmeno Berlusconi è riuscito ad arrivare a tanto. Hanno fatto i condoni, hanno detassato, abbassato le tasse agli evasori fiscali, e a noi ci hanno dato una miseria. Nelle assemblee abbiamo raccontato questo ai lavoratori. Però c'è di più. Si è parlato anche di precarietà. Si chiedeva di combattere la precarietà. Questo governo, a fronte di questi soldi, vorrei aprire una parentesi. Questo governo nel decreto ha messo una frase che non è pericolosa di più, in cui si dice che questi soldi saranno erogati ai lavoratori per creare la moderazione salariale. Cioè, si sta dicendo ai padroni, guardate che questi, quando vi verranno a chiedere i soldi, i sindacati, voi dovete, per il rinnovo dei contratti nazionali, una parte non gliela date, perché gliele abbiamo dati noi prendendoli dalle tasse che loro pagano. Cioè, una presa in giro mostruosa. Noi stiamo per iniziare tutta una serie di rinnovi contrattuali a livello nazionale. Varie categorie hanno già chiesto e stiamo chiedendo degli aumenti salariali importanti. Se voi pensate che gli artigiani e i metalmeccanici abbiamo chiesto 12% di aumento. Stiamo parlando di piccole aziende metalmeccaniche, no? Saranno i primi a essere a cui si chiederà di rinnovare il contratto nazionale. Loro lo sanno questo, e il governo sta aiutando gli imprenditori dicendo: guardate che gli stiamo dando noi dei soldini ai lavoratori, dunque non glieli date voi, no? Cioè, ci rendiamo conto di questo? Queste cose qui in televisione non se ne parla. Oltre a questo scandalo, perché è vergognoso, in cui il governo entra per creare la moderazione salariale in un momento in cui abbiamo un'inflazione del 12%, dunque sta cercando di impedire il rinnovo contrattuale con aumenti salariali importanti, cosa fa? Sulla precarietà non solo non accoglie le richieste della CGIL in cui si chiede di diminuire la precarietà, di cercare di abbattere la precarietà, il problema della precarietà. Il decreto dignità fatto dai 5 Stelle era una cosa in parte buona, perché prevedeva che dopo 12 mesi bisognava mettere le causali, e le ha eliminate. Fino a 24 mesi uno può rimanere interinale, ma non solo, con la firma dell'RSU fino a 36 mesi. Questo è completamente contro quello che i sindacati chiedevano, cioè di combattere la precarietà. Questo governo la estende, facendo un altro grande favore ai padroni di questo paese, che chiedevano di essere liberi di poter tenere i ragazzi interinali per tutto il tempo che vogliono e poi mandarli a casa senza problemi. Non solo, ma sulle pensioni questo governo non ha detto assolutamente nulla, ha fatto dei tagli in realtà ai pensionati. Tutte queste cose hanno fatto sì che la CGIL non solo non ha festeggiato dopo il decreto, ma ha deciso di manifestare, si è manifestato. Se maggio si andrà oltre, saranno varie manifestazioni fatte nel resto d'Italia, la prima quella di Bologna, e speriamo che continui questa lotta, che Landini non farà lo sciopero generale, però se dovesse organizzare delle manifestazioni con un programma preciso per ottenere alcuni risultati importanti, questo sarà sicuramente un primo passo per arrivare a una grande mobilitazione che noi ci aspettiamo il prima possibile, perché sciopero generale va fatto, e forse non ne aveva fatto solamente uno. La Francia ci insegna che le lotte vanno portate fino alla fine, fin quando i lavoratori non decidono di interrompere le lotte, ma invece vanno fatte e bisogna farle per poter ricreare una credibilità che oggi purtroppo i sindacati confederali non hanno più sulle questioni di carattere generale, perché sono 20 anni che non riusciamo a conquistare delle cose importanti di carattere generale che riguardano tutti i lavoratori, dal facchino a chi lavora in banca. Qualcosa di veramente, immaginiamo che se sulle pensioni dovessimo riuscire a ridurre l'età pensionabile, sarebbe qualcosa che interesserebbe tutti. Il salario minimo potrebbe essere una cosa che interessa una buona fetta di lavoratori, un aumento salariale uguale per tutti, cioè una specie di scala mobile, sarebbe qualcosa che riguarderebbe tutti i lavoratori. Insomma, sono battaglie importanti da fare, come quelle contro il precariato, che dovranno essere fatte. Adesso ci ascoltiamo un altro pezzo e poi parleremo proprio di quel pezzo che vi faccio ascoltare. A dopo. Fascisti, il suo compito era cancellare la sede di antifascismo. Forte era il vento, ma senza più fiato. Con i rifugiati dentro al sindacato. Lasciati ammazzare in santa pazienza dalla ferocia dell'indifferenza. Dalla ferocia dell'indifferenza. Oggi come allora hanno buttato un cocktail molotov sulla finestra e è stata chiusa acqua, non c'era acqua. È quasi l'alba nel cuore di Odessa, che dopo il 2 maggio non è più la stessa. Trasmetteranno le penne civili ed ora balliamo, prendiamo i fucili. Ed ora balliamo, prendiamo i fucili. Oggi come allora non passerà. Eccoci di nuovo qui. Per me è dura parlare di questo argomento. Avete sentito Odessa della Banda Popolare dell'Emilia Rossa? A proposito, è uscito il nuovo album. Avremo i nostri compagni della Banda Popolare dell'Emilia Rossa in studio che ci racconteranno del nuovo album. Però adesso qui non parliamo di loro, parliamo di questa canzone Odessa. 2 maggio 2014, sono passati ormai 9 anni da quel maggio. Io, guarda, lo dico da subito, perché oggi appena insomma parli di fascisti ucraini ti danno del filo putiniano. Allora, io non sono filo putiniano. I miei compagni in Russia manifestano per la pace e vengono arrestati, messi in galera, ci tocca anche raccogliere soldi per tirarli fuori dalle carceri, ok? Lo dico proprio chiaramente. Ma i miei compagni sono anche in Ucraina e sono quelli che sono anche loro per la pace, e anche loro finiscono in galera quando gli va bene, perché spesso sono costretti a scappare, come i sopravvissuti della strage di Odessa fuori dall'Ucraina. Vengono uccisi, sono stati anche uccisi tra le file di chi ha lottato nel Donbass, perché alla fine alcuni sono rifugiati nel Donbass e hanno combattuto i fascisti militando nelle formazioni del Donbass, e non erano filo putiniani o filo russi, erano filo ucraini. Ma chi è morto a Odessa il 2 maggio non è morto per Putin, non è morto perché erano per la Russia che conquistasse l'Ucraina. A Odessa il 2 maggio 2014 dei lavoratori comunisti, gli studenti antifascisti avevano paura, avevano ragione, che Maidan avesse portato al governo delle persone che sdoganassero il nazismo, il fascismo, che opprimessero i lavoratori, e l'hanno fatto con leggi sul lavoro vergognose. Hanno eliminato la festa del 1° maggio, loro erano lì perché non accettavano il fatto che il 1° maggio non si potesse festeggiare in Ucraina. Il 1° maggio era una festa importante. Erano lì perché volevano festeggiare il 9 maggio, ma non gliel'hanno permesso. Loro volevano festeggiare chi aveva liberato l'Ucraina dai fascisti. Gliel'hanno impedito il 2 maggio. Li hanno uccisi per quello. La scusa è che erano filo russi, che erano... No, erano degli antifascisti. Era gente che pensava che chi aveva preso il potere a Maidan stava facendo il gioco della NATO, sì, questo. Ma non erano perché il governo ucraino dovesse avere gli accordi con la Russia, dovesse commerciare con la Russia. Loro interessava avere un paese antifascista, e oggi l'Ucraina non lo è. Un paese democratico, e oggi l'Ucraina non lo è. Non lo è da 9 anni, non da febbraio. Ecco perché è importante ricordare Odessa il 2 maggio. Quello è uno spartiacque. Io fino ad Odessa ero titubante su quello che stava accadendo in Ucraina. Maidan, ero rimasto colpito dal fatto che deputati americani, deputati della Comunità Europea fossero andati a incitare i sostenitori di Maidan. Io lì avevo capito che c'era qualcosa che non andava, che quella rivoluzione era peggio che una rivoluzione arancione fionato, ma qualcosa di molto più brutta. Quando ho visto le bandiere di Svoboda e di Previ Sactor lì in piazza Maidan, ho avuto paura. Quando ho saputo che molti compagni che avevano partecipato all'inizio alle manifestazioni erano andati via perché era pieno di fascisti in piazza Maidan, ho capito che stava succedendo qualcosa di brutto in Ucraina. E Odessa è la prova di una strage organizzata impunita. Ripeto, impunita, perché lì è il problema. Perché se avessero perseguitato chi ha ucciso tutte quelle persone in maniera barbara, non avremmo avuto la guerra civile in Ucraina. Odessa è uno spartiacque. Odessa è la dimostrazione che quel governo odiava gli antifascisti. Quel governo era un governo banderista. E anche se sono contro la guerra imperialista russa, purtroppo l'Ucraina non è un paese in cui io vorrei vivere e in cui vorrei che vivessero gli ucraini. Ed è un problema. Non voglio l'Ucraina nella comunità europea. Io sostengo chi in Ucraina combatte questo governo. Questo è importante, perché la solidarietà è la speranza più grande che noi abbiamo, è l'unica arma che abbiamo. Oggi la pace si potrà ottenere solo se ci sarà una rivoluzione e ci sarà l'unione dei lavoratori ucraini e russi. E si tornerà, veramente la pace si può costruire solo sui rapporti di classe. Queste sembrano parole così insensate, ma il problema è che oggi chi sta morendo sono i lavoratori, i ricchi, i borghesi, ucraini e russi non muoiono sul fronte, e si sta combattendo anche per ragioni prettamente economici, imperialistiche. Però dovesse finire la guerra, rimarrebbe il problema in Ucraina, di un paese non democratico in cui ai ragazzi si insegna che il nazismo era una cosa buona, che Bandera era un eroe. Questo noi non lo possiamo accettare, ed è colpa nostra per quello che è successo, è colpa degli europei, non è colpa dei russi. Noi avremmo potuto fermare questo, e Odessa sarebbe stato il momento più importante. Avremmo potuto chiedere al governo di Turchinov di fare giustizia e di dimostrare a tutti gli ucraini che l'Ucraina non è un paese solo per ucraini, che parlano ucraino, che amano Bandera, no. L'Ucraina è il paese di tutti. Purtroppo Odessa dimostra che non è così. E questo ha creato quella guerra civile che ancora oggi c'è in Ucraina e ha dato la scusa a Putin di attaccare e alla NATO di fare la guerra, quello che voleva. Ecco, io vi saluto sperando che veramente si faccia giustizia su Odessa e si torni alla pace e non si spari più in Ucraina come in tutto il mondo. Orgoglioso de estar.